GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Trieste, cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario della sezione regionale della Corte dei Conti. Tra gli argomenti della relazione della procuratrice, il PNRR, la sanità, che anche in Friuli Venezia Giulia è considerato ormai d'urgenza, il reddito di cittadinanza, le truffe tra i candidati all'insegnamento, la scopertura di organico. 6 buone pratiche di integrazione sociosanitaria realizzate in regione sono in illustrazione nel forum di Sacile organizzato da Federsanità ANCI Friuli Venezia Giulia. Obiettivo: presentare le esperienze positive di integrazione sociosanitaria realizzate dai sistemi regionali salute e welfare a partire dai servizi sul territorio. Residenza in Croazia falsa. La finanza di Pordenone scopre un'evasione da 4 milioni. L'imprenditore sosteneva di essere rientrato nel suo paese e di lavorare in Macedonia. Le fiamme gialle sequestrano immobili e gioielli per 700.000 euro. Le reazioni al decreto del Consiglio di Stato che dà il via libera alla preghiera islamica nei luoghi dove il comune di Monfalcone l'aveva vietata. Intanto la sindaca Anna Maria Cisinti è stata posta sotto protezione per la sua incolumità dopo le minacce ricevute. Terza edizione per l'Ecoforum del Friuli Venezia Giulia, organizzato a Udine dall'associazione ambientalista Lega Ambiente. Al centro del dibattito l'economia circolare, la corretta gestione dei rifiuti e le relative buone pratiche già presenti sul territorio. A Trieste si sono riuniti studiosi ed esponenti di aziende da oltre 30 nazioni per partecipare a un appuntamento di matematica industriale organizzato dalla Scuola Internazionale Superiore Studi Avanzati SISSA. Oggi la giornata conclusiva dell'evento. Le 12:32 minuti in questo istante, buongiorno da Giorgio Berz e Maria Spezia che condurranno questa seconda edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia di venerdì 1 marzo. Questa mattina a Trieste dunque la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario della sezione regionale della Corte dei Conti. Tra gli argomenti trattati dalla relazione della procuratrice Tiziana Spedicato, il PNRR, la sanità, che anche in Friuli Venezia Giulia è considerata ormai un'urgenza, il reddito di cittadinanza, le truffe tra i candidati all'insegnamento e la scopertura di organico. Dubbi sulla proroga dello scudo erariale e preoccupazione sulle segnalazioni di ritardi di esecuzione delle opere legate al PNRR è quello che emerge dalla procura della Corte dei Conti nella cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario. La proroga dello scudo erariale, ha detto la procuratrice Spedicato, depotenzia la funzione di deterrenza. L'attività della Corte, ha riferito Spedicato, ha portato in termini di risorse circa 12 milioni di euro. Diversi casi affrontati in regione, ad esempio falsi rapporti di manutenzione e lavorazione con indicazioni di intervento stradali mai eseguiti o eseguiti con modalità differenti che hanno causato all'ANAS un danno complessivo di 566.000 euro per interventi non eseguiti o eseguiti parzialmente. Per questo la Corte dei Conti ha inviato a dedurre una sorta di avviso di garanzia un direttore operativo e un dirigente di ANAS Friuli Venezia Giulia. La magistratura contabile ha esaminato inoltre 9 appalti riscontrando reati di truffa, falso ideologico e corruzione. Tra i numerosi casi di danni nell'ambito della sanità, la sezione ha emesso un invito a dedurre nei confronti di un medico chirurgo di un ospedale della provincia di Udine, condannato anche penalmente, che per una manovra sbagliata in un intervento chirurgico per l'asportazione di un'ernia ha causato la morte della paziente. L'invito a dedurre è stato determinato in 366.000 euro, pari al triplo del valore della retribuzione lorda del medico conseguita durante l'anno, il 2017. Un medico del reparto di terapia intensiva di uno degli ospedali di Gorizia è stato condannato invece a risarcire 250.000 euro per il grave danno cerebrale e stato di coma irreversibile cagionato una paziente che si è estubata 2 volte a causa del carente monitoraggio dei parametri vitali del reparto. E in via di definizione invece un'istruttoria molto complessa su un danno di circa 45 milioni di euro conseguente all'indebita percezione di contributi statali per il finanziamento dei crediti all'esportazione. Trieste, Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia. 6 buone pratiche di integrazione sociosanitaria realizzate in regione sono in illustrazione nel forum in corso a Sacile che è stato organizzato da Federsanità ANCI FVG. Obiettivo: presentare le esperienze positive di integrazione sociosanitaria realizzate dai sistemi regionali salute e welfare a partire dai servizi sul territorio. Federsanità ANCI Friuli Venezia Giulia, che rappresenta la parte diciamo di sociale e di salute dei comuni della regione, si è impegnata qui a Sacile per mettere insieme tutta una serie di soggetti che stanno attuando alcuni progetti anche innovativi, tutti relativi al territorio. Ed è, mi sembra questo il messaggio che arriva da qui. Lo chiediamo a Giuseppe Napoli, presidente di Federsanità ANCI, cioè parlate di sanità ma non parlate di ospedale. Sì, parliamo di salute, che forse è la cosa che ci interessa di più e che ci coinvolge tutti. Nella salute non c'è evidentemente solo il tema sanitario, ma c'è proprio gli stili di vita e la qualità della vita delle persone. Quello che noi proponiamo, e oggi ci fa piacere che è stato colto proprio così da chi ci osserva da fuori, volevamo presentare, come dire, buone pratiche che possono essere realizzate a prescindere dalle strutture ospedaliere o comunque non necessariamente solo con le strutture ospedaliere. I cittadini sentono una sanità sempre più in difficoltà, le liste d'attesa e altri problemi come per esempio la mancanza di medici di medicina generale, soprattutto nelle zone più remote. Il problema dei medici che mancano è un problema vero. È un problema di programmazione che non è stata fatta in maniera oculata 10-15 anni fa, è un problema di università con numero chiuso quando invece bisognava avere più coraggio e investire di più, è un problema evidentemente riguarda anche l'appetibilità della professione medica in Italia rispetto a una concorrenza europea che ci porta via bravi professionisti magari pagandoli molto di più. Come se ne viene fuori? Ce ne viene fuori con molta saggezza, soprattutto ripensando la funzione dei medici che sono fondamentali per qualsiasi tipo di risposta della salute in questo Paese e soprattutto bisogna anche apprezzare e riconoscere evidentemente dal punto di vista anche contrattuale e remunerativo quanto questi fanno già. Sacile, Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. La cronaca alla Guardia di Finanza di Pordenone ha denunciato un cittadino croato accusato di aver frodato il fisco fingendo di essere tornato a risiedere in Croazia e di lavorare dalla Macedonia con un'agenzia pubblicitaria. Sequestrati immobili e valori per oltre 700.000 euro. L'analisi dei primi elementi raccolti, condivisi con la Procura della Repubblica di Pordenone, che ha aperto un fascicolo penale, ha assunto la direzione delle indagini, ha consentito al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di scoprire, anche grazie all'attivazione dei canali di cooperazione giudiziaria internazionale, che l'uomo, un cittadino croato, era in realtà da tempo residente nella provincia di Pordenone, da dove operava attraverso una società che solo formalmente aveva sede legale in Macedonia. Le perquisizioni con l'analisi forense dei supporti informatici sequestrati e gli approfondimenti su rapporti bancari e finanziari hanno permesso di contestare all'imprenditore l'evasione di tasse e imposte per oltre 4 milioni di euro e di denunciarlo per omessa dichiarazione fiscale e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Il Tribunale di Pordenone ha disposto il sequestro delle somme evase eseguito dalle Fiamme Gialle pordenonesi su 6 fabbricati e 9 terreni, oltre che nei confronti di disponibilità finanziarie, contanti, gioielli e accessori di lusso, tra cui 21 orologi di prestigiosi marchi, penne e articoli di pelletteria, per un valore di oltre 700.000 euro. Arrestato a Trieste dai carabinieri un 31enne italiano per rapina ai danni di un esercente cinese in un negozio di articoli da regalo in via del Coroneo. I militari, richiamati da alcuni passanti, sono intervenuti sul posto, bloccando l'uomo che in quel momento stava aggredendo il proprietario del negozio dopo essere stato dallo stesso notato mentre cercava di nascondere della merce nel suo zaino, dove in seguito sono stati trovati anche un taglierino e 2 cacciaviti. Il giovane è stato trasferito nel carcere del Coroneo. Voltiamo pagina, si chiede se in questo paese è ancora garantito lo Stato di diritto. La sindaca di Monfalcone, Anna Maria Cisint, all'indomani del decreto del Consiglio di Stato che dà il via libera alla preghiera islamica nei luoghi in cui il Comune l'aveva vietata. I responsabili della comunità si impegnano a garantire un numero limitato di presenze per evitare affollamenti. Intanto Cisint è stata posta sotto protezione dopo una serie di valutazioni in merito ai rischi che corre per la sua incolumità in seguito alle minacce di morte ricevute. Ringrazio Allah, ringrazio Dio perché siamo stati ascoltati. C'è il sorriso sul volto di Raoul Haq, presidente dell'associazione Baitus Salat, che incontriamo davanti alla sede della sua associazione di via Don Fanina Monfalcone, all'indomani del decreto del Consiglio di Stato che riconosce l'importanza della libertà di culto e ha accolto provvisoriamente il loro ricorso contro il provvedimento preso dal Comune che vietava assembramenti per preghiera nei locali della comunità musulmana. In alcuni giorni, secondo il sindaco, si arrivava a contare anche 1.000 persone radunate assieme. Il TAR aveva dato ragione all'amministrazione comunale, ma il Consiglio di Stato per il momento no. La sentenza è attesa per il 19 marzo, ma Ramadan inizia domenica 10 e la comunità affretta di tornare a pregare in modo collettivo. Loro si impegnano a rispettare il numero massimo di persone nel limite di 51 in questa sede e 300 in quella più grande di Via Duca d'Aosta. I limiti li hanno decisi dei periti, dice Hack. Noi Metteremo un servizio di videosorveglianza e di sorveglianza in modo che nessuno superi il numero massimo di persone consentito. Vogliamo rispettare la legge e auspica un incontro con il sindaco ed esprime solidarietà dopo la notizia di minacce di morte ricevute da Anna Cisint, che per quelle minacce proprio da oggi è sotto scorta. A margine della presentazione del Festival Geografie che si terrà a Monfalcone dal 20 marzo, Cisint non vuole parlare a microfono, ma si domanda se si può mediare sulla sicurezza, se in questo paese è ancora garantito lo stato di diritto. Quei luoghi, dice, secondo il piano regolatore non sono destinati al culto. Attende la sentenza del 19 marzo Cisint, che dice: al momento non ho ricevuto ancora una richiesta di incontro dalla comunità islamica. Monfalcone, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Per gli agricoltori è a rischio l'indennità compensativa, che consiste in un sostegno economico annuale basato sulla superficie posseduta, calcolato sulla base dei maggiori costi e minori ricavi dell'attività agricola esercitate in aree svantaggiate di montagna rispetto ai costi e ricavi della medesima attività svolta però in aree non soggette a disagi naturali. A lanciare l'allarme Franco Clementin, presidente di Agricoltori Italiani FVG CIA. Quest'anno, afferma Clementin, i nostri agricoltori in montagna, per una serie di fattori tecnici e burocratici, si vedranno ridotta l'indennità in una misura che in taluni casi è ben superiore al 50%. In conseguenza a ciò, denuncia il presidente regionale di CIA, molte aziende in Carnia, già in difficoltà, rischiano di chiudere. Terza edizione per l'Ecoforum del Friuli Venezia Giulia, organizzato a Udine dall'associazione ambientalista Lega Ambiente. Al centro del dibattito temi come l'economia circolare, la corretta gestione dei rifiuti e le relative buone pratiche già presenti sul territorio. Solamente 53 comuni in Friuli Venezia Giulia fanno buona raccolta differenziata, oltre il 65%, e hanno una produzione di secco residuo inferiore a 75 kg per abitante anno. Criteri virtuosi per legge il primo e considerato ottimale da Lega Ambiente il secondo. Ma come emerge dall'Ecoforum 2024 dell'Associazione Ambientalista, sono presenti sul territorio in modo molto diseguale, coprono il 67% della popolazione del pordenonese e appena il 26,6% di quella regionale. Assenti in questa classifica i comuni della provincia di Gorizia e Trieste. La raccolta differenziata si attesta al 69,2% in Friuli Venezia Giulia, sesta tra le regioni italiane. Forte disomogeneità si riscontra tra i comuni delle ex province. Primeggia Pordenone con l'82% di raccolta differenziata, Udine con il 72,1%, Gorizia con il 68,9%, in coda Trieste con il 46,1%. Come indica Raul Venier, amministratore delegato della Precosystem di Gemona, prima ditta in Italia per il ciclo di plastica post-consumo dalla raccolta differenziata per la produzione di arredi urbani, sicuramente il futuro sarà nel riutilizzare solamente nel settore industriale queste plastiche, che andranno a sostituire prodotti di uso comune come legno, acciaio e cemento. Nel secco residuo pro capite prodotto in un anno, meglio hanno fatto i comuni di Moimacco, Chions, Lestizza, Canema, Valvasone Arzine, San Vito di Fagagna. La riduzione più significativa rispetto all'anno precedente l'ha realizzato il comune di San Giovanni al Natisone, ma c'è tanto ancora da fare. Un esempio su tutti, come segnala ARPA, soprattutto dopo la pandemia, il secco residuo è ormai composto per il 45% da vecchi capi d'abbigliamento, segno che non vengono intercettati come si deve nella differenziata. Secondo Sandro Carnielutti, presidente regionale di Lega Ambiente, più che di un inceneritore per trattare il residuato dei rifiuti urbani, bisognerebbe investire sul raffinamento di tutta la filiera e su nuove tecnologie, ad esempio processi di riciclo chimico che restituiscono molecole riusabili e prodotti energetici al posto della combustione. Udine, Lillo Montaltomonella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Terza edizione oggi per la giornata di sensibilizzazione sulle malattie dell'orecchio e disturbi uditivi. L'iniziativa dal titolo Sordità, una pandemia silenziosa, è organizzata dalla Società di Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico-Facciale e dalla Società di Audiologia e Foniatria. L'Organizzazione Mondiale della Sanità stima che il 20% della popolazione sia colpita dalla perdita dell'udito, percentuale che con l'avanzare dell'età sale al 40-50%, e che il deficit uditivo contribuisca al deterioramento della socialità e degli aspetti cognitivi. In occasione della giornata, a Trieste, all'ospedale di Cattinara, la clinica di otorinolaringoiatria promuove un evento sulle alternative di riabilitazione acustica per soggetti in cui gli apparecchi acustici tradizionali non siano ottimali. Ne abbiamo parlato con il direttore del Dipartimento, Giancarlo Tirelli. La tecnologia moderna riesce a offrire delle apparecchiature che possono essere posizionate attraverso piccoli interventi chirurgici nel caso di protesi ancorate all'osso, oppure interventi chirurgici in anestesia generale nel caso degli impianti cocleari. Quindi abbiamo, diciamo, soprattutto due tecnologie in grado di ovviare al problema della protesi tradizionale che non riesce a dare un risultato soddisfacente per il paziente. Si tratta di interventi complicati o dolorosi o che possono avere delle conseguenze? Nel caso in cui la sordità non sia particolarmente grave, possiamo effettuare un intervento in anestesia locale e quindi l'impatto sul paziente è minimo, mentre per i casi più severi, parliamo di impianti cocleari e quindi quello che viene chiamato orecchio bionico, in questo caso invece è un intervento chirurgico che viene effettuato in anestesia generale al microscopio operatorio e quindi diciamo c'è una complessità maggiore nell'esecuzione del posizionamento dell'impianto cocleare. Ma si tratta di interventi definitivi? La tecnologia sta facendo passi da gigante, quindi i posizionamenti di questi apparecchi elettronici hanno una durata sempre maggiore. Adesso siamo intorno ai 20 anni di durata, dopodiché comunque i processori che vengono impiantati possono essere sostituiti. I dati del meteo, il cielo è coperto sulla regione, queste le temperature registrate poco fa. A Trieste ci sono 12 gradi, a Gorizia 11 gradi e 5 decimi, a Udine e Pordenone 11 gradi, a Tolmezzo 7 gradi e 5 decimi, a Piancavallo e Sappada 3 gradi e 5 decimi, a Tarvisio e Forni di Sopra 4 gradi, sul Monte Zoncolan 5 decimi di grado, sul Lussari meno 5 decimi di grado, a Grado e Lignano 12 gradi e 5 decimi. All'esperto dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale Sergio Nordio abbiamo chiesto le previsioni meteo per il weekend. Le condizioni del tempo sulla regione, come su gran parte dell'Italia, sono ancora governate dalla presenza di una depressione che però verrà ulteriormente alimentata. Quindi ci aspettiamo, per quanto riguarda la giornata di oggi, ancora piogge sparse che potrebbero essere un po' più abbondanti sul Pordenonese, sulle Prealpi, quota neve abbastanza alta, intorno ai 1600-1700 metri sulle Prealpi, intorno ai 1400-1500 metri sulle zone alpine più interne. Per quanto riguarda domani, ancora umidità in arrivo, anche se con correnti da sud-ovest invece che da sud-est, per questo ci aspettiamo delle piogge sparse, che potrebbero essere un po' più abbondanti sulle zone orientali, forse anche diciamo a ridosso delle Prealpi, una situazione un po' incerta quella di domani, potremmo avere meno precipitazioni nelle zone più interne della montagna, un po' più protette dalle Prealpi, appunto da queste correnti nei bassi strati. Peggiora il tempo poi domenica, ma c'è incertezza sul momento della giornata in cui ci sarà il peggioramento. Potremmo avere una mattina ancora discreta, forse senza precipitazioni in montagna, e una tendenza poi più nel pomeriggio sera a un peggioramento, di nuovo con piogge abbondanti a bassa quota e con nevicate oltre i 1400 metri circa. Questo peggioramento però è ancora un po' incerto, potrebbe anche anticipare un po' e quindi già arrivare un po' di ore prima, quindi bisognerà comunque seguire l'evoluzione. Le temperature resteranno così abbastanza alte per la media del periodo? Sì, temperature ancora miti, ci sarà comunque un lieve calo perché ieri abbiamo toccato valori già decisamente primaverili in pianura e sulla costa, quindi scendiamo di qualche grado, ma restiamo con la massa d'aria ancora mite diciamo per il periodo in cui siamo e quindi non ci sono variazioni poi significative almeno fino all'inizio della prossima settimana. E nonostante la pioggia che cade in montagna dai 1600 metri in giù, rimangono aperte tutte le piste nei sei poli sciistici regionali, ad eccezione di Sella Nevea, dove rimane chiusa la Funifor, cabinovia che collega Conca Prevala a Sella Prevala. Sorprendente la buona affluenza nelle località montane, nonostante le avversità meteo, soprattutto a Tarvisio, dove oggi sono presenti circa 2000 sciatori, di cui la maggior parte da Kranjska Gora in Slovenia, dove sono tutti chiusi gli impianti sciistici. A Trieste si sono riuniti studiosi ed esponenti di aziende da oltre 30 nazioni per partecipare a un appuntamento di matematica industriale organizzato dalla Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati, SISSA. Oggi la giornata conclusiva dell'evento. Si ritrovano per discutere di come quantificare l'incertezza e in questo caso ci sono riusciti. La scelta di Trieste come sede della conferenza internazionale della Società per la Matematica Industriale e Applicata, organizzata anche dalla SISSA, si è rivelata azzeccata. Daniela Calvetti, Case Western Reserve University e SIAM. C'era l'idea di portare l'evento in Europa. Siccome io ero una degli organizzatrici della conferenza precedente, a me è venuta l'idea, possiamo portarli in Italia. Trieste era molto naturale, c'erano appunto delle questioni, delle domande, se saremmo riusciti ad avere abbastanza partecipanti per coprire le spese. E la mia previsione allora, nell'ambito dell'incertezza, era che secondo me in Italia, Trieste, vicino a Venezia, facilmente raggiungibile, avremmo avuto almeno 900 partecipanti. E io all'inizio della conferenza ho visto che sono più di 1000. 1000 da più di 30 paesi, per oltre 250 appuntamenti in 4 giorni. Studiosi e ricercatori, ma anche esponenti di aziende, in una confluenza tra i mondi della ricerca scientifica e dell'industria. Gianluigi Rozza, docente SIS e presidente del comitato organizzatore. La quantificazione dell'incertezza è una scienza quantitativa e che sta assumendo un'importanza sempre più rilevante tra gli argomenti nella matematica applicata e nella statistica, in quanto permette di coniugare meglio tutto quello che viene dai modelli matematici e numerici, che fanno parte appunto del mondo della simulazione, con il mondo dei dati. E questo è sempre più importante al giorno d'oggi per riuscire a creare dei modelli sempre più affidabili e complessi per problemi che possono essere industriali, possono riguardare il clima, la geofisica. Trieste, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. Voltiamo pagina. Emicrania e training cognitivi è il secondo appuntamento del quarto festival della psicologia del Friuli Venezia Giulia, dedicato alla diffusione di conoscenze utili in un'ottica di benessere individuale e di comunità. L'evento è dedicato a una patologia che anche in regione colpisce un adulto su 7 e può essere così invalidante da impedire il normale svolgimento delle attività quotidiane. Appuntamento a Gradisca di Sonzo, al Teatro Comunale, alle 18. Relatrice Emanuela Deodato, attiva nella ricerca in neuroscienze e scienze cognitive al Dipartimento Scienze Mediche e Chirurgiche dell'Università di Trieste. Con lei abbiamo parlato della correlazione tra emicrania e psicologia. La psicologia non tratta solo aspetti affettivi e relazionali, parla anche di aspetti cognitivi, per cui verranno toccati gli aspetti cognitivi che riguardano l'emicrania stessa, che appunto si differenzia dagli altri tipi di cefalee proprio perché c'è un coinvolgimento di funzioni esecutive, di processi cognitivi, dati proprio dal fatto che è una fisiopatologia di origine centrale. Ci sarà una casistica di farmacopea, penso, sterminata, però ci sono anche altri metodi. Abbiamo appunto studiato sia i trattamenti farmacologici che i trattamenti non farmacologici e l'associazione tra i due. Abbiamo inizialmente utilizzato dei trattamenti non farmacologici un po' più standard, che per la fisioterapia si trattava di terapia manuale sui distretti che venivano innervati dal nervo trigemino, per cui il collo, la schiena, la testa. E poi però, studiando appunto la fisiopatologia dell'emicrania, abbiamo capito che in realtà non era sufficiente lavorare su togliere l'irritazione a questo nervo trigemino, ma dovevamo arrivare al cervello stesso per renderlo appunto maggiormente performante nell'elaborare le stimolazioni sensoriali. E pertanto abbiamo studiato questo protocollo, che è un protocollo appunto si chiama Dual Task, che associa esercizio attivo a training cognitivi per allenare questo cervello emicranico. Abbiamo preso spunto da altre patologie in cui viene utilizzato, come ad esempio il decadimento cognitivo negli anziani, ma anche la fatica mentale negli atleti pre-gara. E a proposito di atleti, parliamo di atletica leggera, perché nella giornata d'apertura dei campionati mondiali indoor a Glasgow sarà oggi di scena l'azzurro Zane Weir, che ha ottenuto la cittadinanza italiana avendo un nonno triestino e che sarà impegnato questa sera nella finale del lancio del peso in programma alle 21:20 con diretta su Rai 2 dalle 21. Passiamo al biathlon. Dopo l'annullamento per il maltempo di ieri a Oslo in Norvegia, partirà tra poco alle 13 la 15 km individuale di Coppa del Mondo con Lisa Vitozzi impegnata con il pettorale numero 27. Quella di oggi sarà l'ultima individuale della stagione e la Sappadina è in piena corsa per la Coppa di specialità, essendo seconda in classifica a soli 2 punti dalla leader, la svizzera Lena Häkki. E ora andiamo in Sierra Leone, in un ospedale di emergency, poco lontano dalla capitale Freetown, dove sono impiegati 3 giovani del Friuli Venezia Giulia, e abbiamo contattato una di loro. Elisa Ravasio ha 28 anni, è originaria di Pordenone. Da luglio dello scorso anno vive e lavora nel centro chirurgico di emergency a Goderich, in Sierra Leone, dove è responsabile delle risorse umane. Sicuramente una realtà molto complessa, molto dura sotto certi punti di vista, però ci sono anche sicuramente degli aspetti molto gratificanti legati all'esperienza e legati al lavoro in sé, all'aspetto umanitario. Insieme a lei lavorano tre corregionali, un 25enne di Trieste nel ruolo di farmacista, arrivato 6 mesi fa, e un tecnico 38enne di Aquileia. Tra loro non parlano in friulano e neanche in triestino. Cerchiamo di parlare in inglese perché ovviamente poi il contesto comunque ci richiede poi la lingua inglese, anche perché non siamo soltanto italiani sul progetto. Tra loro, come con gli altri colleghi della missione, i rapporti sono ottimi. Viviamo tutti nello stesso compound, Emergency provvede per noi quindi a una casa, ognuno ha la sua stanza, poi abbiamo la zona comune. L'ospedale è specializzato in chirurgia generale e in ortopedia. Tra le loro missioni c'è anche quella di trattare i cosiddetti pazienti soda. Spesso bambini, quindi pazienti molto, molto piccoli, ingeriscono la soda perché viene utilizzata per fare il sapone e altre lavorazioni magari dalle madri, quindi può succedere che venga ingerita e ovviamente crea un'ustione di tutto l'apparato digerente. Elisa resterà in Sierra Leone fino a inizio dicembre e poi il futuro è ancora aperto. È sicuramente una scelta di vita non semplice per tante cose, però per il momento è sicuramente una scelta che rispecchia quello che voglio fare. Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia. Contrariamente a quanto annunciato nella prima edizione del giornale radio di oggi, si svolgerà regolarmente l'incontro tra lo scrittore svedese Björn Larsson e Paolo Di Paolo, previsto per oggi nel cartellone della rassegna dedica a Sacile. Proporrà le esperienze di 4 giovani imprese della Terre Alte regionali. L'incontro Abitare la Montagna, storie di vita e lavoro. L'appuntamento segnerà l'avvio del master dell'Università di Udine su innovazione dei sistemi agro-silvo-pastorali della montagna, imprese e territori. In presentazione, storie di agricoltura e zootecnia biologica, oltre che di terapia forestale e proposte culturali in ambiente montano. A Udine, alla Biblioteca Scientifica in Via Schiavi, alle 16. Ed è tutto per questo secondo appuntamento con l'informazione del Friuli Venezia Giulia, che è stato redatto e condotto da Maria Spezia e Giorgio Beerz, che vi parla, con la collaborazione tecnica di Mauro Ciccarelli e Walter Vidonis. Ha collaborato in redazione Laura Sarasini. Prossimo appuntamento con il GR alle 15. Grazie dell'attenzione e buon proseguimento di giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.